Oggi come oggi, gioco forza, vivo giornate con addosso una camicia di forza. Nell'angolo di una stanza stretta e buia, se potessi narrerei della mia alleluia, della mia allegria, della mia allergia, della nostalgia. Pensieri che si intrecciano in questa perimetria, con tutti gli occhi addosso anche dentro casa. Cazzo vi guardate, i pazzi sono per la strada. Per questo sto nel mio e spesso parlo solo, così ascolto gente seria e scrivo cosa penso su un tovagliolo. E penso di essere il migliore amico per i chiacchieroni. Se fossero svegli andrebbero fuori dai coglioni. Sempre a ripetermi che parlo poco, vi assimilo quello che ascolto. Poi quando sbotto vi do fuoco, solo con lo sguardo non serve parlare. Dovreste capirlo quando vi mando a cagare. Questo è madness fatto in madness, una vocina manda SOS. Questo è madness fatto in madness, MADNESS. Questo è madness fatto in madness, una vocina manda SOS. Questo è madness fatto in madness, MADNESS. Soffro di NES post-traumatico da ragazzino, ero molto più antipatico. Poi crescendo sono diventato anche lunatico. Oggi sono un folle psicopatico, scorbutico, romantico. Sono un modello matematico, alquanto pratico, oltre che sadico. Non regalo un cazzo, piuttosto me lo sradico. Ve lo dovete guadagnare, sono meritocratico. Mi faccio seghe mentali, sono una testa di cazzo, con gli stessi ideali che avrebbe un pazzo. Rinunciando a vivere, seguito ad amare, credo in un cambiamento e che non esiste il male. Nel destino che mi porta a sbagliare, credo negli amici e pure a Babbo Natale. Che c'è un solo Dio e non si chiama morte, che sono il peggiore e tu sei il più forte. Questo è madness fatto in madness, una vocina manda SOS. Questo è madness fatto in madness, MADNESS. Questo è madness fatto in madness, una vocina manda SOS. Questo è madness fatto in madness, MADNESS. Ti prenderei la penna con cui scrivo nella giugulare, mentre guardi la tele e parli al cellulare. Seduto sul divano, vederti dissanguare. Nella mia testa c'è la terza guerra mondiale e la gente si lamenta perché non parlo molto, ma vi ascolto con una lametta per tagliare corto. Se poi faccio un disco dice chi te lo fa fare, resto in silenzio, faccio danni solo a pensare. Pazzo da legare, sono onesto, legato ai miei ideali. Assorbo i tuoi problemi come linee senza ali, con un pizzico di romantica follia che non guasta come un po' di peperoncino sulla pasta. Madness, psicologia inversa e inversi, anni di terapia, molti dei quali persi. Perché se c'è rima sana in mente sana, madness, questa rima è figlia della pazzia di Ness. We'll be right back.